Non vorrei che i miei attenti radioutenti si perdessero nel mare delle mie allusioni e perdessero il senso del mio discorso. E perciò, per chiarire i miei dubbi circa le nostre supposte specialità artistiche, vorrei servirmi di un esempio che forse faciliterà la comunicazione. L'esempio riguarda le cebadas, che sono, quelle sì, una nostra specialità riconosciuta da tutti. Fate attenzione, miei pazienti radioutenti, che forse riusciamo a capirci. Allora, proviamo a considerare le cebadas, per un momento, come se fossero oggetti semiologici. E non spaventatevi per queste parole incravattate. Cerchiamo, cioè, di considerare le cebadas come se fossero degli oggetti, delle cose, capaci di recare significati che dipendano dal modo in cui si aggregano fra loro le parti che compongono le cebadas, cioè la pasta, il formaggio, il miele, eccetera.